Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. In apertura allo scandalo fiscale in Lussemburgo che rischia di travolgere il presidente della Commissione europea, Juncker. Non si placa la polemica sul ruolo del governo lussemburghese nel concedere generosi e controversi accordi fiscali a numerose multinazionali. La vicenda sta mettendo sotto pressione il nuovo presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, primo ministro del Granducato dal 1995 al 2013. Gli accordi fiscali sono sempre esistiti e sono tendenzialmente legali, ma gettano un'ombra su una persona oggi chiamata a far rispettare le regole di bilancio in Europa. Stamani la Commissione europea ha spiegato che intende valutare se la vicenda, emersa grazie a un'inchiesta giornalistica, possa servire come base per nuove indagini comunitarie alla luce di eventuali aiuti di Stato illegittimi. Il portavoce dell'esecutivo comunitario ha lasciato intendere che Juncker non si presenterà davanti al Parlamento europeo per dare spiegazioni sul suo operato mentre era primo ministro, a meno di una richiesta formale da parte della maggioranza dei deputati. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La richiesta alla Gran Bretagna di pagare 1,7 miliardi di sterline entro il primo dicembre è inaccettabile. Voglio discuterlo oggi, mi assicurerò che la Gran Bretagna spunti un accordo migliore. Così il ministro dell'economia britannico Osborne all'Ecofin, che discuterà oggi la questione della revisione del bilancio dopo il nuovo calcolo del PIL. Il rinvio a fine mese del giudizio della legge di stabilità da parte della Commissione europea è un fatto tecnico dettato dal fatto banale che c'è stato un cambio di guardia alla Commissione. I nuovi commissari hanno bisogno di più tempo perché hanno iniziato a lavorare un giorno fa. Così il ministro dell'economia Padoan, che torna oggi sulle polemiche sullo scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit. Oggi è importante reagire alle tante rappresentazioni meschine, malevoli e riduttive della costruzione europea. Lo ha detto oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano intervenendo al Quirinale. Aumento sotto le attese per la produzione industriale della Germania a settembre, salita dal 1,4% contro la stima di più 2% redatta da Bloomberg. Ad agosto la produzione era scesa del 3,1, il peggior calo dal gennaio 2009. Nel terzo trimestre l'aumento è dello 0,4%. Riparte invece l'export, che a settembre ha registrato un balzo del 5,5 dopo il crollo del 5,8 di agosto. In aumento anche le importazioni. Il surplus della bilancia commerciale è salito così a 18,5 miliardi di euro dai 17,5 di agosto. Infine parliamo di progetti di riqualificazione di luoghi culturali europei. Lo Zoo di Rotterdam, il Museo del Mare in Lituania, il Creta Aquarium in Grecia e ancora la City Hall di Belfast, l'Esperimentarium di Copenaghen, ma soprattutto la Cappella Sistina, capolavoro assoluto dell'arte rinascimentale. Ma cosa hanno in comune questi luoghi tra loro? Si chiamano Led for Art e Illuminate, sono i progetti finanziati dall'Unione Europea per riqualificare luoghi d'arte e cultura attraverso una nuova illuminazione che consenta non solo di valorizzare i beni artistici e culturali, ma anche di realizzare un notevole risparmio energetico. Nel caso della Cappella Sistina il carico si abbatte di oltre 60% a fronte però di una illuminazione maggiore. Sono 7.000 nuovi LED da oggi puntati sul Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti e sulle altre opere dei grandi artisti italiani, da Botticelli al Perugino, dal Pinturicchio al Ghirlandaio, presenti all'interno della cappella realizzata all'epoca di Papa Sisto IV. Un'illuminazione meglio distribuita, più intensa, ma nello stesso tempo meno invasiva e rispettosa della sacralità dell'area, un sistema che tra l'altro permette di rallentare l'invecchiamento degli affreschi rispetto al sistema precedente. L'Unione Europea per questi due progetti ha investito oltre 2 milioni di euro nell'ambito di un programma a supporto di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. È tutto per Europa 24, vi ha parlato per oggi Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.